cambiare a volte la realtà, oppure è un verso di poesia, l'emozione è un po' di verità. Poi il vento sulla pelle, volare in alto più che puoi, cercare nel libro delle stelle qualche rigo dedicato a noi. Fantasia, volare lontano, cambiare qualcosa per noi, uno sguardo per caso o sfiorare una mano nel romanzo d'amore che vuoi. Ancora una volta e sentire adesso che cosa sarà, rivederla ancora per poi capire che emozioni più forti darà. Fantasia, cambiare può la realtà, ancora un verso di poesia per sentire cos'è la verità, parlare insieme di stelle per dare qualcosa di noi. Emozioni sempre più belle, per amare più forte che puoi. Sentimento che porta lontano, cercando il qualcosa che vuoi. Vederla ogni tanto e sfiorarle la mano, una storia su misura per noi. Che importa se devi soffrire, se alla fine l'amore sarà. Non importa molto nemmeno capire se il colore